stesse fiamme, come una supernova vorace, attraggo persino la mia luce. Un tempo nero e accecante, so di bruciare fra le mie stesse fiamme, come una supernova vorace, attraggo persino la mia luce. Un tempo nero e accecante. Fiamme come una supernova vorace attorno.